23. Atarva non aveva fretta. Aspettava. Le gigantesche scansie degli archivi incombevano su di lui, come pareti a picco. C'erano migliaia di filmati in quelle scansie, migliaia di nastri registrati e di segreti. Tutte le schede degli uomini del regime e dei loro nemici. Il mondo era lì. Tranne una parte. I segreti inaccessibili. Ciò che in nessun modo poteva venir ricomposto, mutato. Ciò su cui non si poteva mentire. Questo era l'archivio zero. Forse avrebbe dovuto aspettare ancora molto tempo. Con calma, consultò sul bibliovideo l'elenco dei filmati Shama. Come prevedeva, il 6157 era una normale fucilazione di studenti. Quello che lui cercava era altrove, nella numerazione dello zero. Per curiosità, si mise a passare in rassegna l'elenco delle biografie. E poiché subito apparve la A, la tentazione fu forte. Sullo schermo brillò il suo nome. Atarva Nathaniel Martino, nato l'anno del primo pesce. Padre e madre morti in un incidente aereo. Affidato a un istituto di padri telematici, si dimostra allievo eccezionale e si laurea in fisica e matematica col massimo dei voti. Entra nella maggiore azienda nazionale di computeri, con l'incarico di studiare sistemi di sicurezza e vaccini contro gli inserimenti fraudolenti. Inventa due linguaggi, il Doberman e l'Alamo. Sposa una sua collega, Robinia Roby. È un matrimonio felice. Ma 3 anni dopo, in un attentato ribelle ai computer statali, la moglie muore e lui resta ferito e sfigurato. Decide di entrare nei servizi segreti. Come agente provocatore, si infiltra nel tempio Baol della Rana, dove impara le tecniche Baol di suggestione, ipnosi e trasformazione. Grazie alla sua abilità di computerista e ai poteri Baol, diventa uno dei migliori compositori di realtà. Giudizio. Elemento valido e utile, ma da tenere sotto sorveglianza, in quanto non è escluso che il suo passato Baol lo abbia eccessivamente individualizzato. Note caratteristiche. Ha il corpo completamente bruciato nell'esplosione dell'attentato e lo copre con indumenti pesanti. Igiene scarsissima. Vive a 6 gradi sotto zero. Ghiotto di latte. Ascolta troppo i Beatles. Onanista. Immagine. Non esce mai dal palazzo, molto temuto dai colleghi. Il fatto che sia stato Baol fa notevolmente vacillare la fama di incorruttibilità dei Baol. Nessuna possibilità di impiego politico o televisiaco per il look miserando. Rifiuta la parrucca. Data prevista fine utilizzazione 1998. NB. Per biografia 1, vedi archivio 0. Atarva sorrise. Aveva ancora 8 anni davanti a sé. Che generosità da parte dei ragazzi del regime. Beh, in quei dati non c'era nulla che lui non sapesse che gli altri sapevano. Un solo dubbio. Cosa significava quell'ultima nota?